Fatto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Anticipato il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, sarà alle 17, confermato il voto palese, scintille tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, Bondi contesta la presenza dei senatori a vita. Dopo il voto sulla legge di stabilità, Letta dice che il governo è più forte. Abbiamo al Senato la stessa maggioranza del centrodestra nel 2008. I sottosegretari forzisti lascino, chiede. E la manovra, aggiunge, si potrà migliorare ancora alla Camera. Secondo i primi calcoli del Sole 24 Ore, la IUC potrebbe costare ai cittadini più di IMU e TARSU. Sardegna, criminale rendere abitabili i seminterrati, dice il capo della Protezione Civile Gabrielli. Prima conta dei danni, 9 milioni solo in Gallura, 500 imprese agricole danneggiate, tra poco ospiti due sindaci. Accordo tra Merkel ed SPD sulla coalizione per il nuovo governo. Ora l'intesa andrà al vaglio degli elettori socialdemocratici. Incertezza sull'esito. Una buona giornata da Simone Spezia e benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Se volete commentare questa puntata potete farlo su Twitter con l'hashtag Effetto Giorno. Iniziamo dalla giornata che è quella che dovrebbe sancire la decadenza di Silvio Berlusconi dalla carica di senatore e ci colleghiamo appunto con il Senato e con Alessandra Schepisi. Alessandra, buongiorno innanzitutto, quali sono le ultime? Ecco, le ultime, innanzitutto buongiorno, le ultime sono che il Senato accelera e si accorciano i tempi per il voto sulla decadenza da senatore di Berlusconi. La conferenza dei capigruppo aveva stabilito ieri che si sarebbe votato alle 19, i tempi sono stati anticipati alle 17 dopo una revisione dell'ammontare degli ordini del giorno, delle questioni pregiudiziali che sono state poste contro la decadenza, questioni tutte poco fa respinte dall'Aula in un'unica votazione per alzata di mano. Ora è in corso la discussione generale. Alle 15.30 dichiarazioni di voto, alle 17 come si diceva il voto. Una seduta molto animata che si è aperta con la lettura da parte del Presidente della Giunta delle Immunità Dario Stefano della relazione della Giunta, bagarre in aula con Forza Italia e Nuovo Centrodestra che chiedevano il ricorso al voto segreto, richiesta respinta dal Presidente del Senato Grasso, polemica anche da parte di Forza Italia sulla presenza in questa occasione di tutti i senatori a vita, un comportamento altamente discutibile, ha detto il Vicepresidente del Senato Grasso. Sparri, visto che normalmente battono il record di assenteismo, vergognatevi, ha ripetuto Sandro Bondi, mentre dal PD il capogruppo Zanda ha accusato il centrodestra di atteggiamento intimidatorio. Dunque questo è il clima in cui sta svolgendo il dibattito. Alessandra, questo è il clima nell'aula e poi oggi è anche una giornata di manifestazioni. Eh sì, perché è prevista innanzitutto una manifestazione a via del Plebiscito, i manifestanti stanno giungendo davanti a Palazzo Grazioli ed è atteso intorno alle 16 un breve comizio di Berlusconi davanti ai suoi sostenitori. È previsto però a poche centinaia di metri di distanza anche un altro sit-in, quello del Popolo Viola, che invoca invece la decadenza del leader di Forza Italia. Per questo poi in tutta la zona sono state rafforzate le misure di sicurezza, soprattutto per evitare che i due gruppi entrino in contatto tra loro. Il Cavaliere, dopo il comizio, potrebbe trasferirsi subito ad Arcore per attendere l'esito del voto oppure aspettare il verdetto invece direttamente in piazza. Quel che è certo è che è stata annullata la sua partecipazione a Porta a Porta. Grazie ad Alessandra Schepisi. Intanto è intervenuto questa mattina il Presidente del Consiglio Enrico Letta commentando il voto di ieri sulla legge di stabilità, ma non senza riferimenti, come è naturale, alla situazione politica in genere. Dunque ascoltiamo la sua voce. 171 è un numero che rappresenta un numero molto elevato, come tranne in un caso nemmeno il governo Berlusconi ha mai preso negli anni scorsi, nel senso che il governo Berlusconi ha ottenuto una fiducia più larga di 171 con il Porcellum quando è nato nel 2008, che ha ottenuto 173 voti. Tutte le altre volte il numero di voti di fiducia è stato inferiore, quindi 171 da parte del Senato ieri rappresenta una fiducia importante, significativa, che rafforza il governo con, ripeto, un numero e dei numeri che ci incoraggiano ad andare avanti e sono più larghi di quanto la rappresentazione mediatica, che voleva ridurre il tutto a 2-3 senatori di margine, voleva fare. Non è così, è tutt'altro che è un numero risicato, è un numero come quelli che ha avuto Berlusconi tra il 2008 e in quella legislatura. Il punto di Stefano Folli. Annunziato dalla sua sigla, ma quest'oggi in diretta. Stefano, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Simone, buongiorno. Eccoci qua. Allora, come la vedi la situazione? Beh, l'esito del voto mi sembra scontato, soprattutto visto che il voto è palese, no? Ma è tutto scontato in questa vicenda, compreso il passaggio all'opposizione di Berlusconi più sulla legge di stabilità che sulla questione della decadenza, anche se è evidente che si tratta di questo, il vero problema è la decadenza. Tutto è scontato, ma tutto genera comunque una fortissima tensione, perché questa è una giornata che cambia molto nella politica italiana, chiude di fatto una lunga stagione, diciamo pure che chiude quello che abbiamo chiamato Seconda Repubblica, che non è mai stata una Seconda Repubblica efficiente dal punto di vista istituzionale, e lascia un governo con numeri più ristretti, ma diciamo sulla carta almeno più coeso, più deciso, ci auguriamo tutti più capace di intervenire sui problemi del paese, lascia la destra, il centrodestra disgregato, si dovrà ricomporre il centrodestra di governo, dovrà trovare una sua identità nel gruppo di Alfano e degli altri, e certamente Berlusconi dovrà stare attento a non farsi trascinare oltre una certa misura sul piano del populismo, dell'estremismo contro le istituzioni, perché comunque è un personaggio che ha una storia, che ha rappresentato un pezzo di storia italiana nel bene o nel male, che ha inventato il bipolarismo, insomma ha fatto molte cose, non so come sarà ricordato dagli storici. Da questo punto di vista questa è una giornata effettivamente che chiude un passaggio importante e apre una storia piena di incognite. Grazie al nostro Stefano Folli. Si parlava dell'azione di governo, ebbene l'azione di governo che si sta concretizzando in queste ore naturalmente con la legge di stabilità. Ha detto tra l'altro il Presidente del Consiglio Letta che la legge di stabilità può essere ulteriormente migliorata alla Camera. Anche di questo parleremo tra poco, se riusciremo a beccarlo, perché le linee col Senato sono sempre complicate. Ne parleremo con Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Intanto invece c'è in studio il nostro Gianni Trovati del Sole 24 Ore. Gianni, buongiorno. Buongiorno a voi. Specialone oggi sul Sole 24 Ore, dedicato naturalmente alla manovra e al maxi emendamento del governo che ha ricevuto la fiducia questa notte. Gianni, però io ti voglio portare su questa IUC, l'imposta unica comunale. Avete fatto dei calcoli oggi sul Sole 24 Ore dai quali emerge, guarda un po', che probabilmente ci costerà di più. Sì, esatto, i calcoli sono stati fatti con l'aliquota standard, con tutti i parametri standard, e nel confronto la pressione fiscale di partenza della IUC rispetto a quella dell'IMU sia sulla prima casa sia sugli altri immobili è quasi sempre maggiore. Ma perché? Il dato è abbastanza semplice. Avevamo sottolineato e denunciato già quando c'era stata la versione originaria della legge di stabilità che senza le detrazioni che invece erano presenti nell'IMU sull'abitazione principale, anche le abitazioni principali rischiavano di pagare di più. Le detrazioni, anche con il maxi emendamento, sono state lasciate, diciamo così, al buon cuore dei comuni, però i comuni più che col buon cuore devono fare i conti con i buoni bilanci che non hanno in questa fase per varie ragioni, e quindi c'è il rischio concreto, direi quasi la certezza, che anche queste detrazioni, che sono finanziate, ricordiamolo, anche con 500 milioni di euro da parte dello Stato, riguarderanno una minoranza di abitazioni principali, e quindi la maggioranza sarà priva di detrazioni e quindi rischia di pagare di più. Il rischio aumenta con gli aumenti di aliquota che i comuni possono fare, perché la IUC dà una nuova leva fiscale ai comuni proprio nel momento in cui la finanza locale vive una fase di massima difficoltà. L'incrocio di questi due fattori aumenta naturalmente i rischi di aumenti di aliquote e quindi di incrementi del prelievo rispetto all'IMU, quindi alla fine molti saranno probabilmente costretti a rimpiangere l'IMU che stiamo così faticosamente superando e che non abbiamo ancora superato. Grazie a Gianni Trovati del Sole 24 Grazie. Ore, molti dettagli naturalmente sul Sole 24 Ore oggi in edicola, comprese tutte le altre novità che riguardano la manovra a partire dal contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro. Noi passiamo a parlare della Sardegna, oggi si sta cercando di fare un punto sulla situazione dei danni e il prefetto Gabrielli, che tra l'altro dovrebbe essere in Sardegna insomma nei prossimi minuti, non so se è già arrivato in Sardegna, questa mattina ha parlato in commissione della situazione per riferire appunto sulla situazione in Sardegna e ha detto tra le altre cose è criminale rendere abitabili i seminterrati. Sentiamo una parte delle sue parole. In contesti di questo genere non si può stare nei seminterrati, ma c'è scritto nel sito della Protezione Civile, non è un'offesa ai morti. I morti vanno rispettati, i morti vanno anche differenziati, perché il povero poliziotto che nell'adempimento del suo dovere, e che ovviamente lì ci stava perché ci doveva stare, quello è un morto che non si discute. Magari altre situazioni ci debbono interrogare come sistema e come persone, perché se delle persone sono morte nei seminterrati, la cosa implica un coinvolgimento delle persone e un coinvolgimento del sistema, del sistema. E veniamo proprio al sistema. Io saluto Alberto Ragnedda, che è sindaco di Arzachena. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno a lei. Tra l'altro proprio ad Arzachena c'è stata la vicenda di quelle quattro persone, quella famiglia di origine brasiliana che è morta proprio in un seminterrato dove abitava. Si è sentito coinvolto da queste parole di Gabrielli, sindaco? No, anzi le condivido. Tenga presente che nel caso specifico non si trattava neanche di un seminterrato, ma proprio di un interrato, di una cantina sotterranea, e quelle persone di fatto nei documenti ufficiali non abitavano lì, erano residenti in una via del paese a alcuni chilometri da lì, quindi a tutt'oggi non è chiaro come mai fossero lì. Non è chiaro come abitassero lì. Vorrei soltanto spiegare. Prego, prego. Perché gli interrati non hanno l'abitabilità, come nel caso specifico di quel locale lì. Cioè lì non si può abitare. Quindi condivido le parole del prefetto Gabrielli. Condivide le parole del prefetto Gabrielli, non l'abbiamo detto prima, ma insomma lo sapete tutti, è il capo della Protezione Civile. Allora, voi siete in questo momento a questo incontro, al quale credo che partecipi anche Gabrielli, non so. Sì, è qui, lo vedo qui di fronte a me. È di fronte a lei. Allora, state cercando, sindaco, di fare anche una conta dei danni a questo punto. Com'è la situazione da lei? Adesso il comune di Arzachena, i danni sono nell'ordine dei 700.000 euro per le infrastrutture, quindi non è poco, ma non è una cifra elevatissima. Abbiamo un problema rilevante da un punto di vista ambientale, perché su uno di questi, sul Rio San Giovanni, che è uno dei fiumi che ha esondato, c'era una fabbrica di asfalti, e quindi c'è uno sversamento di idrocarburi lungo il fiume, in alcune piane, per cui il conteggio per la messa in sicurezza, per la sola messa in sicurezza ad oggi, è di circa 5 milioni di euro, e questi non sono soldi che alla portata degli enti locali oggi. Naturalmente, tra l'altro, con tutti i problemi a chiudere i bilanci in questo periodo, che derivano naturalmente non solamente dalla situazione nella quale vi trovate, ma anche da una situazione generale, da un'incertezza fiscale che non vi lascia poco scampo, no? Certo, è proprio così. Noi abbiamo tentato ieri, con un consiglio comunale urgente, straordinario e urgente, di dare un segnale soprattutto alle attività produttive, ancorché alle famiglie, di presenza del comune, dell'ente locale, però abbiamo visto che sia la sospensione che il rinvio delle imposte locali non risolvono tanto, sarebbe necessaria la dichiarazione dello stato di calamità, dipende dalla presidenza del Consiglio dei Ministri, e comunque non è una grande soluzione. Stiamo adottando l'idea di un contributo speciale da dare alle imprese, però ripeto, con le casse dei comuni e soprattutto in virtù del patto di stabilità non risolviamo granché insomma con quei soldi. La ringrazio, grazie al sindaco di Arzachena Alberto Ragneda per essere stato con noi, buona giornata, naturalmente in bocca al lupo, e continueremo a tenere i riflettori sulla Sardegna. Adesso intanto andiamo a sentire cosa succede su strade e autostrade. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. È stato anticipato il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore. Sarà alle 17, confermato il voto palese. Scintille tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Bondi contesta la presenza dei senatori a vita. Dopo il voto sulla legge di stabilità, Letta dice che il governo è più forte. Abbiamo al Senato la stessa maggioranza del centrodestra nel 2008. I sottosegretari forzisti lasciano, chiede. E la manovra, aggiunge, si potrà migliorare ancora alla Camera. Secondo i primi calcoli del Sole 24 Ore, la IUC potrebbe costare ai cittadini più di IMU e TARSU. Sardegna, criminale rendere abitabili i seminterrati, dice il capo della protezione civile Gabrielli. C'è una prima conta dei danni, 9 milioni sono in gallura, 500 imprese agricole danneggiate. E poi c'è una notizia appena battuta dalle agenzie che vi voglio leggere e che arriva dal Belgio. C'è stato un primo ok, ed è una vicenda che farà discutere, del Belgio all'estensione dell'eutanasia ai minori. Le commissioni competenti del Senato hanno adottato a larghissima maggioranza il testo di legge che la estende a quei bambini di cui uno psicologo avrà riconosciuto la capacità di discernimento. E noi ritorniamo alla legge di stabilità. Saluto Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia, bentornato ai nostri microfoni. Buongiorno. Buongiorno. Ha detto oggi il Presidente del Consiglio che la legge di stabilità potrà essere migliorata ulteriormente alla Camera. Come? Beh, innanzitutto ci sono dei percorsi che abbiamo già iniziato al Senato che hanno bisogno di riprecisazione. Il percorso sulla casa è stato molto importante perché abbiamo messo 500 milioni per le detrazioni e circa 200 per gli immobili. Si tratta di capire che soddisfazione dà questo e se ci sono ulteriori aggiustamenti da fare. Abbiamo poi tutto il problema del sociale sul quale abbiamo fatto dei primi interventi e poi c'è la parte calamità naturali sulle quali 100 milioni sono stati stanziati al Senato per le emergenze immediate, ma ahimè purtroppo quello è un tema sul quale forse c'è bisogno di ulteriori interventi. Questi sono soltanto alcuni dei temi sui quali si può continuare il lavoro iniziato al Senato. Tra l'altro, da quanto emerge dalle tabelle, la manovra passa da 12,4 miliardi a 15 miliardi di euro nel 2014, appena battuta dalle agenzie, ma lei immagino naturalmente che lo sapesse. Volevo capire questo, c'è un'altra partita che è ancora in gioco, ne abbiamo parlato ieri ancora con un rappresentante dell'ANCI qua ad effetto giorno, ed è questa della seconda rata IMU. Allora, è stato assicurato più di una volta dal governo e quindi insomma, nemmeno glielo chiedo più, sottosegretario, che questa seconda rata non verrà pagata. Certo che la scadenza è vicinissima, ad un passo, e un problema di risorse c'è, è obiettivo questo? Sì, il problema di risorse c'è per la parte che riguarda le maggiorazioni che i comuni hanno inserito legittimamente ovviamente nei loro bilanci con riferimento al 2013, perché la prima rata noi l'abbiamo ristornata ai comuni sulla base del gettito reale del 2012. Se qualche comune ha nel 2013 aumentato l'aliquota di competenza, qui c'è questo sfrido quantitativo che non è marginale, viene stimato in quasi 500 milioni, che rappresenta un peso rilevante, e quindi stiamo vedendo come affrontarlo, perché da un lato ci sono le difficoltà del bilancio pubblico nazionale, dall'altro però capisco che il problema che pongono i comuni c'è quello di avere una certezza delle loro entrate. Questo è esattamente uno dei punti oggetto della discussione che Palazzo Chigi sta affrontando in previsione del decreto. Anche perché finisce per ricadere sulla testa dei cittadini tutto questo, no? Perché i comuni naturalmente dove si rivarranno eventualmente, no? Beh sì, anche se per correttezza dobbiamo dire che i cittadini quest'anno non hanno dovuto pagare la parte di IMU, quindi quello di cui stiamo parlando non è l'intero ammontare, stiamo parlando, faccio un esempio, se un comune l'anno scorso aveva l'aliquota al 5 per 1000, che è un punto in più del minimo, e l'avesse portata quest'anno al 6, stiamo parlando di uno, dell'aliquota dell'1 per 1000. Quindi nell'ipotesi che speriamo di scongiurare che i comuni la chiedessero ai cittadini, stiamo parlando dell'1, il massimo 2 per 1000 di quanto è stato pagato, quindi sono cifre direi francamente irrisorie, più che altro diciamo varrebbe la pena evitarlo, ma non si tratta di una questione davvero penalizzante. Aggiungo anche che teniamo presente che in Senato abbiamo introdotto con uno stanziamento importante per il 2014 di circa 500 milioni il fatto che i comuni possano fare, e anzi dovranno fare, perché è finalizzato a quello, le detrazioni per quella fascia di cittadini che le avevano e rischiavano di non averle più. Ultime due domande molto rapide, anche perché so che poi deve andare in commissione, insomma, quindi c'ha anche la sua attività istituzionale naturalmente, come è giusto che sia. La prima domanda riguarda questo contributo di solidarietà sulle cosiddette pensioni d'oro. Qua la Corte Costituzionale su questo ha bocciato due volte provvedimenti di questo tipo. Non rischiate una nuova bocciatura, Baretta? Ma guardi, qui sappiamo bene che la posizione della Corte, e ovviamente dobbiamo tenerne conto, e abbiamo costruito delle soluzioni tecniche che potrebbero consentire alla Corte di ripensare. Ciò non toglie che in presenza pur di un'opinione autorevolissima e legittima, la politica debba anche continuare a dare dei contributi nella direzione della soluzione dei problemi. Il fatto che chi ha pensioni molto alte possa contribuire a soluzioni di carattere sociale, noi lo consideriamo una scelta da compiere soprattutto in questa fase. E pensate alla Camera di poter rafforzare la parte cuneo fiscale della manovra? È stato fatto al Senato un'operazione molto interessante, cioè quella di ridimensionare, date le cifre complessive, la redistribuzione. E questo, come lei sa, è un problema di risorse. Quello che alla Camera personalmente penso andrebbe fatto è quanto ha detto ieri il Presidente Letta, cioè stabilizzare questo fondo che renderà automatico il fatto che il cuneo fiscale vada a nuove risorse da evasione fiscale, eccetera. Questo sarebbe una risposta importante in prospettiva. E pensa che si possa fare? Penso di sì. La ringrazio, grazie per Paolo Baretta, grazie, sottosegretario all'economia, per essere stato con noi. Buona giornata, buon lavoro naturalmente. Noi adesso vogliamo parlare di spettacoli e poi tra un attimo invece verremo al calcio. Parliamo di spettacoli con, dopo tante polemiche, tante discussioni, perché la prima rischiava di essere bloccata, non succede solo a Milano con la Scala, ma è successo anche a Roma, stasera ci sarà la prima all'Opera di Roma. Sentiamo. È l'Ernani di Verdi, diretto da Riccardo Muti, a inaugurare la nuova stagione del Teatro dell'Opera di Roma. Dopo giorni di incertezza per la minaccia di sciopero dei lavoratori, è tutto pronto per la serata a cui assisteranno anche il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, e il Presidente del Senato, Pietro Grasso. La regia dell'Ernani è firmata, con le scene e i costumi, da Ugo Deana. Ernani e Francesco Meli, mentre Carlo, re di Spagna, è Luca Salsi. La difficoltà sta nel fatto che non è proprio ancora nel pieno stile verdiano, ma è più uno stile belcantistico, quindi tecnicamente parlando è scritta in una zona del passaggio molto alta, cioè del baritono, è scritta abbastanza acuta per il baritono, quindi è anche nello stile è molto belcantista, appunto, però con la passione già verdiana. Il sipario si alza alle 19. Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ed eccoci col nostro Carlo Genta a fare due chiacchiere su questa giornata di Champions di ieri, che sembra aver rivitalizzato il Milan. Il Milan è andato a prendere ossigeno non in montagna ma in Scozia. Questo 3-0 che, insomma, forse nessuno si aspettava, magari neanche il dimissionario Galliani o nemmeno la entrante Barbara Berlusconi, però al di là di questi discorsi societari, sul campo il Milan ha segnato questi tre gol aprendo con Kakà e chiudendo con Balotelli, che sono nel bene e nel male i giocatori più discussi e chiacchierati. Milan che è vicino a questo punto al passaggio del turno in Champions League, l'Ajax ha battuto il Barcellona e questo ha complicato un pelo il verdetto che poteva essere già definitivo ieri sera, mentre al Milan adesso serve un punto in casa con l'Ajax, certo non è un'impresa impossibile nell'ultima giornata. Male invece il Napoli, pur in un girone impossibile, ha perso 3-1 a Dortmund e è molto probabile a questo punto l'eliminazione dalla fase a gironi per il Napoli, che dovrà battere l'Arsenal nell'ultima giornata, ma potrebbe non bastare. Stasera c'è la Juventus che è in corsa, deve battere Copenaghen e poi fare risultato nell'ultima giornata a Istanbul con il Galatasaray. Dunque ancora tutto aperto, molti temi, serata divertente, ne parliamo dopo. Naturalmente lo ritrovate, come sapete, Carlo Genta subito dopo Effetto Giorno, subito dopo Europa 24, insomma poco dopo le 14 con tutti i convocati. Noi adesso ci fermiamo, ci prendiamo una pausa, ci ritroviamo tra un attimo e tra le altre cose ritorneremo su quell'appuntamento fisso che abbiamo deciso di tenere, insomma almeno 3 giorni a settimana, occupandoci della cosiddetta terra dei fuochi. A tra poco. Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti. Sarà alle 17 il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi. È stato confermato il voto palese. Bondi contesta la presenza dei senatori a vita. Dura replica del PD e Grasso dice a un certo punto chiudiamola qua. In giornata ci saranno 2 manifestazioni, una pro e una contro il Cavaliere. Forza Italia dice non fanno entrare i nostri pullman in centro. Dopo il voto sulla legge di stabilità, intanto il Presidente del Consiglio Letta dice che il governo è più forte. Abbiamo al Senato la stessa maggioranza del centrodestra nel 2008, aggiunge. La manovra, dice ancora Letta, si potrà migliorare ancora la Camera. Secondo i primi calcoli del Sole 24 Ore, la IUC potrebbe costare ai cittadini più di IMU e TARSU. Sardegna, sono quasi 100 milioni i danni solamente per la viabilità. Il capo della protezione civile Gabrielli è in visita nella zona e all'incontro con i sindaci e dice in commissione criminale rendere abitabili i seminterrati. Tra l'altro nella conta dei danni entrano anche 9 milioni solo in Gallure e 500 imprese agricole danneggiate. Una notizia che farà discutere, che arriva dal Belgio, è arrivato un primo ok per l'eutanasia ai minori. Le commissioni competenti del Senato hanno adottato a larghissima maggioranza il testo di legge che la estende a quei bambini dei quali uno psicologo aveva riconosciuto la capacità di discernimento. Accordo tra Merkel e SPD sulla coalizione per il nuovo governo. Ora l'intesa andrà al vaglio degli elettori socialdemocratici e c'è incertezza sull'esito. Dice Merkel, con il programma di grande coalizione la piena occupazione è un obiettivo possibile per la Germania. E adesso veniamo allo spazio che abbiamo deciso di dedicare quotidianamente a quest'ora, almeno il martedì, il mercoledì e il giovedì, perché lunedì e il venerdì c'è l'inchiesta di Daniele Biacchesti, alla terra dei fuochi, quell'area tra il nord, tra nord di Napoli e Caserta, dove per anni, per decenni in realtà, la camorra ha sversato rifiuti anche tossici. Abbiamo deciso di suddividere, ve lo ricordo ancora, in una serie di parti, ne parleremo per le prossime 3 settimane oltre a questa. Parleremo di acqua, terra, aria e fuoco e questa è la settimana dell'acqua. Centimetri al giorno, sembra poco ma sono quasi 20 metri all'anno, è la velocità alla quale avanzano i contaminanti nella falda acquifera della ex Resit a Giugliano, paesone, ma sarebbe più corretto dire città, di 120.000 abitanti alle porte di Napoli. Là sono state sversate oltre 340.000 tonnellate di rifiuti tossici ed è per questa vicenda che il boss Francesco Bidognetti, 2 settimane fa, è stato condannato a 20 anni di carcere. È il primo tra i camorristi ad essere riconosciuto colpevole di disastro ambientale e inquinamento delle acque. Giuliano è tra l'altro il simbolo di come alla gestione della Camorra si sia affiancata una gestione disastrosa da parte dello Stato. Da anni, una decina, ci sono montagne di ecoballe accumulate là dalle varie gestioni commissariali per un totale che viene stimato tra 6 e 7 milioni di tonnellate. E su Giuliano nelle prossime settimane, questo ve lo assicuro, ci torneremo, perché da questo punto di vista è veramente un caso esemplare. Ma torniamo all'acqua. Giovanni Balestri è un geologo e ha scritto una lunga e corposa relazione consegnata alla DDA sulla situazione nell'area ex Resit. Nella falda acquifera sotto la ex Resit di Giuliano abbiamo trovato molti traccianti chimici di origine industriale. Quindi si possono trovare metalli pesanti e soprattutto tracce di composti clorurati cancerogeni. La contaminazione è dunque già iniziata, ma bisogna intervenire. Nel 2064, spiega Balestri, ma l'ipotesi è cautelativa, questo è da chiarire perché sembra un momento lontano, ma l'ipotesi appunto è cautelativa. Le sostanze inquinanti penetreranno nello strato di tufo sottostante e il percolato, quando sentite parlare di percolato, è il liquido che si produce quando l'acqua passa attraverso i rifiuti, arriverà in falda in maniera massiccia. Da dire che però c'è già, questo non vuol dire, appunto, come già si accennava, che la falda non sia già inquinata. La percolazione è già in essere, sta raggiungendo la falda per quanto riguarda il moto naturale. Per quanto riguarda il moto dovuto alla contaminazione già avvenuta, è diretto attraverso ad esempio i depositi disperdenti. Quindi in questo caso l'irrecuperabilità del problema è questo, che il percolato è già partito ed è difficile arrestarlo. Ci sono alcune parole interessanti che secondo me possono essere utili a dare la misura di quello che succede in quella zona, in particolare su quel terreno. Il commissario alle bonifiche in Campania, Mario De Biase, ha definito la situazione dell'area ex Resit un incubo, anzi il suo incubo personale. Paragona la situazione a quella dell'Ilva di Taranto e, pur rassicurando sul fatto che frutta e ortaggi non risultano contaminati, almeno al momento, dice che la bonifica è impossibile. Parliamo di un'area di oltre 58.000 metri quadri. Aggiunge che ci vorrebbe un sarcofago come per Chernobyl, piazzato però 30 metri sottoterra. Ancora Balestri. È possibile recuperarla attraverso tecniche sofisticate che consistono nell'estrarre l'acqua, depurarla e rimetterla in falda. E ha dei costi pazzeschi tutto questo, immagino. Tutto questo ha dei costi pazzeschi perché le profondità degli invasi sono dell'ordine di 30 metri. Sono aree vaste, decine di migliaia di metri quadri, e quindi il confinamento è complesso. E anche l'estrazione, la pulizia, diciamo così, dell'acqua e la reimmissione della stessa acqua in falda una volta pulita è effettivamente molto oneroso. Poi allo stesso Balestri noi abbiamo anche chiesto se lui consideri, insomma, personalmente, da scienziato a questo punto, non più da consulente della procura, se consideri davvero la situazione irrecuperabile, e ci dice, insomma, io sono uno scienziato, io penso che con la tecnologia e con la scienza certe cose si possano risolvere. Certo che le risorse necessarie per realizzare tutto questo, per realizzare la bonifica di quell'area, sono veramente imponenti, probabilmente impossibili da trovare. Vi devo ricordare anche questo, che noi stiamo mettendo delle versioni estese di quello che vi raccontiamo su questi temi sul nostro sito internet, in un'operazione incrociata, per così dire, appunto tra la trasmissione e il sito, come è normale che sia. E troverete non solo i testi di quello che vi abbiamo raccontato, ma anche l'audio, l'intervista integrale a Balestri, che è molto più lunga dei pochi brani che vi abbiamo fatto sentire, proprio sul nostro sito internet www.radio24.it. Vi ricordo che se volete commentare, raccontare qualcosa, l'hashtag su Twitter è Effetto Giorno, e potete scrivermi anche a Simone Spetia su Twitter. Noi adesso ci prendiamo un attimo di respiro e vogliamo parlare di arte, una mostra all'origine delle sensazioni, una mostra internazionale che il FAI ha allestito insieme all'ACMA di Los Angeles a Villa Panza di Biuma, a Varese, un progetto espositivo realizzato anche con la collaborazione del Guggenheim Museum di New York e curato da Michael Govan, direttore del Los Angeles County Museum of Art, e da Anna Bernardini, direttore di Villa Panza. Adriana Fracchi ha intervistato Marco Magnifico, vicepresidente esecutivo del FAI. La mostra di Villa Panza è una cosa diversa da andare a vedere una mostra, è un'esperienza. James Turrell e Robert Irwin sono in California e negli Stati Uniti un po' come erano Michelangelo e Raffaello nella Roma di Giulio II, cioè sono due titani, sono i due grandi creatori dell'arte ambientale, che è stato un movimento nato negli anni 70 e che ancora tuttora loro impersonificano come i più importanti di questo filone di arte. In questa mostra usano strumenti divini per creare la loro arte, perché loro usano la luce e lo spazio, che sono tipicamente due strumenti di Dio, e loro lavorano con questi strumenti. Quindi in un certo senso in questa mostra non si vede niente, e a parte tre oggetti di Robert Irwin, sono tutte installazioni fatte di luce e di spazio. Quindi in un certo senso non è quello che si vede che fa la mostra, ma è come si vede quello che c'è. La mostra si chiama Aesthesis, all'origine delle sensazioni. Vi abbiamo parlato di Sardegna, ebbene è appena arrivata una notizia da tutte le agenzie che riguarda le inchieste. Sono stati richiesti ma mai arrivati i documenti che accertano i collaudi sulle strade della Gallura più colpite dall'alluvione, compreso il ponte crollato sulla Olbia Tempio. Il PM di Tempio Pausania, Riccardo Rossi, ha annunciato che ora procederemo in maniera più forte con le perquisizioni negli uffici, perché ci sono appunto grosse difficoltà nell'acquisizione dei collaudi. Anche questo è un elemento interessante che viene valutato, come avete sentito, dai magistrati. Sentiamo cosa succede su strade e autostrade. Ci ritroviamo tra un attimo, come sempre, con Mario Platero e America 24. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Anticipato il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi da senatore, sarà alle 17. Dopo il voto sulla legge di stabilità, Letta dice: il governo è più forte, la manovra si potrà migliorare. Sardegna, criminale rendere abitabili i seminterrati, dice il capo della protezione civile Gabrielli. Accordo tra Merkel e SPD sulla coalizione per il nuovo governo. È il momento di America 24 e di Mario Platero. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi presenta... America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti ad America 24. Buongiorno Simone da New York, Mario Platero. Violence against women and girls directly affects individuals. It also harms our common humanity. Ban Ki-moon, il segretario generale delle Nazioni Unite, ha partecipato un paio di giorni fa alla giornata mondiale dedicata all'eliminazione della violenza contro le donne. La data è stata scelta per commemorare le sorelle Mirabal, tre attiviste politiche domenicane brutalmente assassinate durante la dittatura di Rafael Trujillo nel 1960. Devo dire, le Nazioni Unite hanno veramente dato al mondo un momento di grande commozione e partecipazione, non soltanto rievocando la memoria di queste sorelle, ma rievocando il dramma di milioni di donne che in ogni angolo del mondo sono indifese e oggetto di violenza. Sentiamo l'ambasciatore italiano Sebastiano Cardi, che ha partecipato ai lavori. But it's not an issue that, you know, concerns women only. It concerns mainly, in fact, men, because violence in the 90% of the cases come from men. Ecco, il rappresentante permanente alle Nazioni Unite, l'ambasciatore Sebastiano Cardi, dice: la questione della violenza contro le donne non riguarda soltanto le donne, ma riguarda invece e soprattutto gli uomini, perché nel 90% dei casi i responsabili di queste violenze sono appunto uomini. Ecco, io spesso in questa mia trasmissione vi parlo di quelle che sono le intolleranze sia nei confronti dei deboli, del sesso debole, ma anche le intolleranze razziali. Oggi davvero voglio dedicare questa trasmissione così al risveglio delle nostre coscienze, anche perché in Italia soprattutto abbiamo avuto 128 donne che sono state uccise nel corso dell'anno. C'è anche un danno economico, ma è immateriale. Quello che conta è che ci sono delle donne che non sono protette. C'è stato il caso di Lucia Annibali, il presidente della Repubblica Napolitano le ha dato un'onorificenza di cavaliere al merito perché era stata sfregiata dal vetriolo. Insomma, i casi sono molteplici, ma se dobbiamo portarli

da New York è tutto. Simone, ti ripasso la linea. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going. Meglio una banca o meglio un promotore? Meglio Fideuram. Vi ha presentato America 24. Grazie anche a Mario Platero. Si chiude così questa puntata di Effetto Giorno. Ringraziamento anche a Gianmarco Ferronato in regia, Laura Faggini in redazione assistenza, come sempre a tutta la redazione di Radio 24. Vi ricordo, mi potete raggiungere se volete su Twitter Simone Spezia, andate a visitare il nostro sito www.radio24.it, dove stiamo mettendo le puntate quotidiane che stiamo dedicando alla Terra dei Fuochi. Ci risentiamo tra un attimo, come sempre, con il giornale radio e poi alle 13 di domani con Effetto Giorno.